Ciao a tutti e tutti e bentornati a questo incontro organizzato da Off Topic su rendite patrimoniali nella crisi Covid-19. Ospiti con noi ci sono Andrea Fumagalli, economista, docente all'Università di Pavia e studioso ed esperto delle trasformazioni del mercato del lavoro e della situazione del precariato in Italia. Alessandro Santoro, economista, tributarista, docente in Bocconi e consulente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Andrea Di Stefano, direttore della rivista Valori e profondo critico di quello che è in generale l'economia e il modello neoliberista. Nella prima parte abbiamo approfondito le tematiche riguardanti i provvedimenti patrimoniali e quindi come da questo punto di vista poter rispondere alle esigenze della crisi che si annuncia alle porte. Riprendiamo da qui e in questa seconda parte ci vedremo invece più da vicino le vicende milanesi, quindi come poter affrontare la crisi, quali risorse dove prenderle soprattutto. Lascio la parola a Mario per introdurre quindi questa seconda parte e proseguire con le domande. La nostra riflessione quando abbiamo deciso, ho provato a lanciare questa chiacchierata qualche settimana fa, ormai forse qualche giorno fa, nasceva in effetti da una veloce, ma spero non troppo sbagliata, analisi della situazione della crisi, soprattutto a Milano, soprattutto nella parte di città che noi riusciamo ad osservare, che è quella dove la Milano, che ha vissuto per mesi, per anni, forse per decenni, di essere la città-stato, cioè il soggetto che riesce ad essere economicamente indipendente e comunque all'avanguardia di tutte le dinamiche, certamente nazionali, forse europee, scopre improvvisamente che da un lato il lavoro per una grossa fascia di soggetti è estremamente labile. Quindi non c'erano solo i precari di cui ci siamo occupati e i lavori in difficoltà, ci siamo occupati per mesi e per anni negli anni scorsi, ma questa fascia si è estesa improvvisamente in un modo importante, endemico, su fasce che si poteva immaginare potevano essere colpite, ma che le abbiamo viste toccate con mano. E dall'altra parte però abbiamo visto che se appunto il reddito del lavoro era facilmente abbattibile, nel senso che poteva saltare da un momento all'altro per colpa di una crisi sicuramente importante, sicuramente strutturale forte, però quello poteva saltare, le rendite da capitale, le rendite da patrimonio immobiliare, quelle rimangono strutturalmente invariabili, cioè nel senso abbiamo visto un po' di qualche sciopero dell'affitto, qualche proposta di non pagare l'affitto di soggetti, ma tutto sommato ci sembra che ci sia ancora una fortissima disparità, soprattutto nella Milano che non vuole fermarsi, come direbbe appunto una certa corrente di pensiero, per cui la domanda in effetti nasceva da questo, ma è possibile pensare a dei provvedimenti tra cui uno l'abbiamo chiamato patrimoniale, ma potrebbero essercene altri, che vanno a tamponare, a correggere, a sistemare questa profondissima disuguaglianza? Perché la frase che sintetizza tutto questo è che di fronte alla crisi non siamo tutti uguali. Lascio ancora la parola prima ad Andrea Fumagalli, che forse tra un po' dovrà fuggire. Prego. Grazie Mario. Dunque, se facciamo un discorso su Milano, allora bisogna sfatare questo mito della Milano vetrina e di tutta una retorica sulla Milano Smart City, la Milano di qua, la Milano di là. Mi ricordo, io sono abbastanza vecchio da ricordarmi tutto il periodo della Milano da bere degli anni Ottanta. No. Perché in realtà Milano è come tutte le metropoli, che hanno questa faccia abbastanza luccicante all'esterno. Tale faccia luccicante è possibile perché c'è una Milano invisibile, soprattutto dal punto di vista del lavoro, dove intere fette di lavoro sono completamente marginalizzate e invisibilizzate. È il lavoro migrante, è il lavoro della logistica, è il lavoro sulle piattaforme, quello forse emerge qualche punta dell'iceberg, come il discorso che è stato fatto in questi, soprattutto a Milano, grazie anche delle attività di mobilitazione sindacale, eccetera, per quanto riguarda i riders, che nella situazione di emergenza erano gli unici che, soprattutto in alcuni momenti, adesso non più, si potevano vedere in strada. Questa è la parte che è stata maggiormente colpita dalla crisi. E noi non abbiamo ancora visto niente, a mio avviso, perché gli effetti di questa crisi, che è double fast, cioè dico delle cose, non so se sono in linea, diciamo. Da una parte noi abbiamo che nella realtà lombarda il lockdown ha funzionato in maniera molto molto parziale rispetto ad altre parti d'Italia, perché l'attività produttiva non si è mai completamente fermata, soprattutto non tanto nella realtà metropolitana, ma nell'interland circostante, dove c'è un processo di produzione modulare per flussi, dove sono stati interrotti alcuni nodi della produzione su fornitura della logistica produttiva per alcuni settori, ma in realtà poi dal punto di vista del lato della produzione e dell'offerta, lo sviluppo, la capacità produttiva è calata, ma non tanto quanto si potesse pensare. Quello che invece ha inciso è stata tutta l'attività, quella visibile, dei negozi al dettaglio e tutte queste cose qua, quelle che hanno maggiormente subito. Gli effetti comunque di questa situazione non sono ancora arrivati. Io credo che sarà tra un paio di mesi in cui si toccherà con mano in maniera più netta e decisa gli effetti recessivi di questa situazione, in particolar modo sul lavoro. Abbiamo uno sgocciolamento, diciamo, di questo tipo. Milano ha una quota di contratti di lavoro a tempo determinato e la maggior parte di questi contratti non sono stati rinnovati, che sono venuti a scadenza nel periodo. Abbiamo una serie di lavori, una quota molto elevata in alcuni settori del terziario, di lavori a somministrazione, che non sono, che hanno, sono venuti meno. Abbiamo la possibilità nella realtà milanese di accedere agli ammortizzatori sociali che sono stati utilizzati come cassa integrazione in particolar modo, che in realtà per buona parte di questa popolazione che sta dietro e che rende possibile la vetrina Milano, questa popolazione lavorativa non può accederli. Ed è però troppo, tra virgolette, ricca, no? Per poter accedere alle forme di reddito di cittadinanza antipovertà, il cui limite è per individuo 9.600 euro di flusso di reddito. A Milano, per il discorso degli affitti, il discorso del caro casa, eccetera, eccetera, noi abbiamo che se due persone o tre persone che vivono nello stesso appartamento, uno dei quali ha un reddito di 5-6 mila euro, che è un reddito a Milano di povertà assoluta, inferiore alla soglia di povertà assoluta, ma fanno cumulo, non possono accedere al reddito di cittadinanza, nemmeno meno potranno accedere al reddito di emergenza nel caso venisse approvato. E quindi ci sarà un buco che dal punto di vista della sostenibilità dei redditi, che sarà particolarmente gravoso. Dall'altra parte, chiudo, credo anche, ma questa è un'impressione, però ho avuto qualche sentore di chiacchiere, però le chiacchiere non fanno distintivo, come si dice, no? Del fatto che Milano negli ultimi anni ha avuto una bolla speculativa immobiliare molto elevata. È stata l'unica città che ha visto la crescita dei prezzi delle case. Parlo negli ultimi 4-5 anni, no? Adesso credo che questa fase, questa bolla speculativa stia scoppiando, si stia riducendo da questo punto di vista. Il che significa che, anche perché la possibilità di domande di appartamenti è in fase calante tutte le volte che c'è un'attività, un processo recessivo, e aumenta invece l'offerta di casa per recuperare della liquidità nel caso, laddove sia possibile. Rimane aperto il discorso degli affitti. Questo credo che sul tema degli affitti a Milano, questo sia un terreno su cui è necessario fare un'attività, un intervento politico ben mirato e strutturato. Alessandro. Cosa bisognerebbe fare a Milano? Bisognerebbe innanzitutto fare una cosa banale, nel senso che dal punto di vista tecnico è fattibilissima da anni, e cioè adeguare le rendite catastali ai valori di mercato, tanto per cominciare. Questo già darebbe la possibilità di far emergere quei processi di valorizzazione o di speculazione, a seconda di come li si veda dal punto di vista di chi li ha fatti o di chi li ha subiti, del capitale immobiliare, potrebbe consentire di far pagare anche meno imposte ad altri e contemporaneamente di avere più gettito. Perché non si può fare? Perché la legge nazionale attualmente impedisce queste operazioni, a meno che non si faccia tutta una procedura complicatissima che si chiama zonizzazione, se non entriamo nei dettagli, ma è difficilissimo fare, oltre che altamente impopolare per chi lo fa. Quindi i comuni hanno fatto pochissimo, Milano l'ha fatto ma in misura ridottissima. Quindi i comuni, i grandi comuni che hanno bisogno di risorse dovrebbero chiedere innanzitutto questo a livello locale. E poi, a mio avviso, se si vuole cominciare da un'imposta patrimoniale strutturale, se quella straordinaria non convince, bisogna muoversi sulla linea delle imposte sulle successioni. La prima cosa che bisognerebbe toccare sono le imposte sulle successioni. C'è la proposta che credo abbiate visto del Forum Disuguaglianza e Diversità, ce ne sono altre, e quella è di tutti i capitali, di tutti i patrimoni, quello più evidentemente detassato, nel senso che sotto il milione di euro non si paga veramente un euro. Però questo va oltre il livello locale. Sul livello locale ti direi, cominciamo a rivedere tutte le rendite catastali e lasciamo il gettito in più al comune, che va a fare una revisione sulla base dei prezzi di mercato. I dati per farlo ci sono assolutamente. Andrea Di Stefano. Sì, non aggiungo nulla, sono d'accordissimo con quello che dice Alessandro, in particolare questo punto della revisione delle rendite catastali. Ci potremmo aggiungere qualcosa che riguarda specificatamente il tema area C estesa, cioè tariffa d'ingresso della città, tutte le polemiche su questo. Secondo me erano polemiche pretestuose, ma mi rendo conto che parlare in questo momento di una revisione dell'area C con la questione Covid possa essere molto difficile da gestire, per quelle ragioni che dicevo precedentemente sul tema mezzi pubblici e sicurezza. Quindi non credo che su quello si possa fare molto. Lascio la parola a Luca e poi anche ad altri se vogliono intervenire, alzano la manina come si fa qua su Gizzi. Quindi vai Luca. Sì, io partirei proprio dalle cose che nelle risposte alle ultime due domande Andrea, Alessandro e Andrea hanno toccato alcuni aspetti, sia sui meccanismi di fiscalità, sia sulle priorità a cui attingere o le priorità a cui prestare attenzione, che chiaramente rappresentano uno spettro abbastanza ampio, no? Abbiamo bisogno di grossi investimenti per, come dire, rigenerare una sanità pubblica assolutamente allo sfascio. Abbiamo bisogno, usando un termine caro ad Andrea Fumagalli, di un reddito di base incondizionato e universale, proprio per la portata della crisi economica che ci prepariamo ad affrontare, ma abbiamo bisogno anche di qualcosa che permetta di far fronte al tema casa e un'attenzione particolare, giustamente sottolineava Andrea, Andrea Di Stefano, al termo a territorio, cioè il territorio, l'ambiente, non possono essere, come dire, la moneta di scambio per affrontare questo, per cui vale tutto, valgono deroghe, vale una nuova corsa agli oneri di urbanizzazione, vale tutto, no? Perché sempre legato al tema ambiente, se ne parlava anche in questi giorni, non a caso proprio in avvio fase 2, avremo bisogno anche di grossi investimenti sul trasporto pubblico, se vogliamo evitare che la gente o si affolli o appunto come si ricordava. Allora, proprio partendo di nuovo dall'esempio Milano e proprio prendendolo un po' a esempio, non tanto, non forse di quello che è la peculiarità italiana, ma sicuramente di quelle che sono oggi gli aspetti della finanza e dell'economia globale. Prima si parlava di appunto intercettare la rete di profitti e andare a colpire i patrimoni delle grandi piattaforme, dei grandi gruppi che operano sul web. Ma come fare tutto questo da un lato senza farlo pagare al consumatore? Su questi temi vi chiederei appunto come poter intercettare e senza appunto oneri per noi tutti. No, allora sul capitalismo delle piattaforme si sta ragionando, sicuramente una nuova modalità di organizzazione del lavoro e della produzione che ancora deve essere ben compresa. Per fortuna c'è un molto interesse da parte del pensiero critico ed eretico anche dal punto di vista economico, perché dal punto di vista della mainstream economics non c'è nulla. Abbiamo due dispositivi che oggi sono in atto, che riguardano dall'altra parte proprio le modalità di organizzazione di un capitalismo di piattaforme e di una tipologia di prestazione lavorativa che diventa sempre più cognitiva digitale e si produce un processo di domestication della prestazione lavorativa. Forse domestication non è il termine esatto, sicuramente le sperimentazioni in termini di smart working, di telelavoro che sono state adottate in questa situazione saranno una delle sperimentazioni che diventeranno strutturale anche nel futuro, aprendo tutto un campo nuovo di deregolamentazione dell'attività lavorativa e di processi di autosfruttamento e di incremento di produttività. Io lo dico, lo sto vivendo sulla mia pelle proprio in questi giorni, in queste settimane di arresti domiciliari, e che rischia di diventare un nuovo modello di segmentazione e gerarchizzazione del lavoro. Su questo credo che una riflessione, un intervento di carattere politico-culturale sia la premessa per un intervento di carattere sindacale che deve seguire, ma c'è tutto un lavoro da fare. Dall'altra parte abbiamo invece tutto il discorso del welfare a cui faceva riferimento Luca. Anche qui ci siamo resi conto che questo welfare vetrina, questo welfare efficiente che utilizza le teorie del new public management, ovvero quelle teorie che ci dicono che il vero welfare si divide o tra imprese municipalizzate quotate in borsa e quindi liberalizzate, quindi quando un'impresa è quotata in borsa, ricordo che non può chiudere i bilanci in perdita, ma deve ottenere un profitto positivo ed eventualmente dei dividendi da distribuire agli azionisti, visto che è quotata in borsa e ha degli azionisti. E laddove questi, e quindi significa questo, un processo di welfare selettivo finalizzato sul modello workfare. Dall'altra parte abbiamo invece tutto il ricorso per la platea che rimane esclusa dalla possibilità di accedere a questi servizi del capitalismo compassionevole, della sussidiarietà gestita dalle grandi organizzazioni di business della cooperazione sociale che in Lombardia, in particolar modo a Milano, come sappiamo, hanno un peso non indifferente anche nel condizionare le politiche pubbliche. Allora, su questi sono i due, io credo che sul welfare da un lato e sulla comprensione di trovare le modalità di intervento sul capitalismo delle piattaforme si gioca oggi il termine del conflitto sociale. Siamo ancora molto indietro. Siamo molto indietro perché dal punto di vista della tradizione novecentesca di parte del sindacato tutte queste cose non sono assolutamente comprese, anzi vieni guardata abbastanza male quando fai riferimento a queste cose qua. Dall'altra parte, anche a livello di movimenti eccetera, purtroppo siamo in una situazione di crisi politica forse, ma e quindi occorre affinare le forze per sviluppare una capacità di intervento su temi che sono molto complessi. Io mi limito a dire questo, più in là non posso andare purtroppo. Alessandro. Dunque, la domanda era, se non ricordo male, come si può contrastare con questo meccanismo di enorme concentrazione di potere economico e politico da parte, diciamo, per capirci, insomma, chiamiamoli giganti del web per usare un'etichetta. Sono convinto anch'io che buona parte abbia a che fare con il conflitto come componente essenziale della dinamica sociale e con la sua rappresentazione. Però di questo ha già parlato Andrea e quindi non parlo. Dal punto di vista della tassazione, però voglio essere molto chiaro. Io stesso prima ho introdotto il livello globale, però non credo che ci si possa fare illusioni. Non esiste un livello locale in cui si possano gestire ed ottenere dei risultati su queste cose. A mio avviso non esiste, o è molto limitato, anche un livello nazionale, ed è per questo che non credo, no? La mia principale obiezione ai miei amici sovranisti di sinistra è proprio questa, cioè voi non considerate che il richiudersi nei confini nazionali non farà altro che aumentare questi processi di sfruttamento e di concentrazione del potere, non potrà ridurre. Ovviamente sono ben consapevole del fatto che la dimensione europea ad oggi è quasi, ma non inesistente, direi quasi dannosa su questi fenomeni, perché questi soggetti riescono a fare quello che fanno perché sfruttano i paesi europei e i paradisi fiscali che sono in Europa a tutti gli effetti. Però ahimè, io credo che non esistano meccanismi credibili sul lato fiscale, non sul lato della conflittualità diffusa sul territorio e del portare quantomeno ad emersione certi fenomeni di sfruttamento che sono invece fisici e locali. Pensiamo solo al lavoro in certi luoghi, Amazon e tutto il resto, questo sì, ma invece questo che sta, diciamo, a monte, quello che sta a valle, e cioè intercettare utili, ricavi e profitti con lo strumento fiscale, dubito che si possa fare a livello locale, forse non si può fare neanche a livello nazionale. Ahimè, so che è una risposta che è stata detta molte volte, ma temo che sia vera. Si può fare sicuramente molto di più per intercettare le rendite immobiliari che non per intercettare le rendite finanziarie, secondo me, a livello locale, visto che la domanda era sul livello locale. Andrea Di Stefano. E poi dopo lascio la parola a Max, che forse ha un'altra domanda. Ma questo l'avevo già detto prima, io vedo solo come strategia quello della, come vi ho detto, della tassazione di tutte le transazioni, sia una tantum per ogni transazione, sia in misura percentuale sull'ammontare, che trovo che sia lo strumento basilare attraverso il quale mettere sotto, cioè intercettare i flussi che vengono prodotti dalle piattaforme, che non possono sfuggire appunto a questo elemento specifico e tracciabile della transazione attraverso una qualsiasi forma di moneta elettronica, carta di credito, annessi. Non credo che ci siano grandi strumenti a livello locale, se non appunto quelli che abbiamo già enunciato, a cui si potrebbero aggiungere degli elementi di natura di legame, diciamo, tra l'occupazione delle superfici e sempre un tema di prestazioni ambientali, cioè banalmente nella revisione sulle rendite catastali si potrebbe introdurre qualcosa di innovativo legato per esempio alla classe energetica. Questo ha un'implicazione molto forte, soprattutto in contesti come quelli di una città come Milano, cioè se io un edificio continua a rimanere in classe EG, è penalizzato rispetto a un edificio che si sposta in una classe B o addirittura A, questo secondo me potrebbe avere degli impatti molto rilevanti e anche essere di fatto un indiretto stimolo economico da questo punto di vista, perché è evidente che stimoleremmo gli interventi per l'efficientamento energetico, il cappotto e annessi che avrebbero poi delle ricadute in termini di emissioni di CO2 e quindi inquinamento atmosferico molto consistente. Lo stesso strumento io lo sperimenterei sulla logistica, sul trasporto pacchi di qualsiasi natura e quindi sui mezzi che vengono utilizzati e conseguentemente sull'impronta di carbonio di tutti gli strumenti che vengono utilizzati per la consegne, che siano consegne appunto capillari B2C sia quelle B2B, perché anche questo credo che sia uno strumento che potrebbe favorire e migliorare le condizioni dal punto di vista territoriale. Faccio solo un'osservazione su questa ultima nota di Andrea Di Stefano, che è molto interessante, nel senso che quello che abbiamo visto nelle città in questi giorni è un'aria pulita, è l'acqua pulita, cioè abbiamo scoperto che viviamo in un contesto profondamente urbanizzato, ma che ha ancora delle risorse di tipo ambientale che possono tornare indietro. Cioè abbiamo visto che esiste il percorso al contrario. Però noi che siamo a piano terra e che abbiamo una sede occupata bellissima, sfigata, davanti al bosco verticale, ci verrebbe da dire, con una logica di questo tipo, quelli che stanno nel bosco verticale pagherebbero molto poco, perché sono tutti in classe A più certificata. È evidente che ci sono dei pro e dei contro, però fino ad oggi quelli del bosco verticale sono molto pochi. Ecco, dopodiché, dal punto di vista delle prestazioni ambientali, è evidente che quelli del bosco verticale sono meglio di quelli del grattacielo di fronte, ex Tecnimont, così Mare Tecnimont, eccetera. Quindi si potrebbe anche modulare in base alle proprietà, certo, ai gestori del, sarebbe un modo per equilibrare un po' la rendita del real estate milanese, insomma. Ecco, su real estate penso che Max volesse fare una domanda. C'è ancora Max Maina? Sì, prego Max, vai. Eccomi qua. Sì, in effetti Andrea Di Stefano prima ha citato il concetto di bolla immobiliare, e anche se la mia domanda esula un attimino dal macro tema di questo incontro, che si riferisce più alla rendita patrimoniale, però mi ha acceso questa curiosità, che è un po' un tema che off topic segue molto, e sarebbe questa. Lo scenario che sta creando così questa emergenza coronavirus rischia in qualche modo di scombussolare i piani di rigenerazione urbana assistita, mi permetto di dire. Mi riferisco, non so, in particolare agli scali ferroviari, a quello che grava, alle volumetrie che gravano sugli scali ferroviari a San Siro, con la demolizione del Meazza, la creazione del nuovo stadio, ma soprattutto tutto il mega progetto che ci sta intorno e che giustifica la creazione dello stadio nuovo, il trotto e quant'altro. Ecco, questa situazione rischia appunto di scombussolare le carte ai Manfredi Catella di turno, oppure addirittura questi riescono a realizzare tutti i mega progetti che hanno in mente, ma poi questo scenario con le macerie che si lascerà alle spalle rischia di farci ritrovare in un cimitero di dinosauri in putrefazione, quindi inutilizzabili. Grazie. Direi che l'ordine a questo punto è libero tra Andrea e Alessandro, prego, decidete voi. Ma guarda, rispondo per quella che è la mia percezione. Avrete sicuramente visto che è stato per il momento sospeso il megacentro commerciale di Segrate, che si portava dietro anche tutta un'operazione immobiliare gigantesca legata ovviamente a questa emergenza. Credo che la spinta, diciamo, dei grandi soggetti real estate possa subire una frenata, però c'è anche un'altra opzione se non c'è una capacità, come dire, di governo saldo, e cioè che chi ha le posizioni finanziarie disponibili approfitti del momento per accelerare o per cambiare il volto ad altri pezzi della città, nella convinzione che poi prima o poi più prima che poi si riprende il business as usual della Milano, diciamo, in bolla espansiva, sia turistica sia eventificica e compagnia, insomma. Dopodiché, siccome il dibattito per fortuna è molto aperto, si potrebbe intervenire molto su questo e su quali sono i profili da questo punto di vista che potrebbero ispirare l'azione di un'amministrazione che comunque dovrà fare i conti, non dimentichiamocelo, con un buco, mi sembra, di quasi mezzo miliardo in termini di mancati incassi per varie ragioni. Quindi avrà secondo me una grossa pressione su questo, e quindi rischia di fare addirittura, invece che passi avanti, mega passi indietro. C'è Alessandro che adesso deve dire due cose. Sì, scusate, che io dico e poi vi saluto e vi ringrazio. Allora, dico solo due cose. La prima, ricordiamoci comunque che adesso con le operazioni delle banche centrali i tassi di interesse reali sul capitale finanziario sono bassissimi, per cui che non ci sia un certo interesse a continuare a mantenere un volume rilevante sul capitale immobiliare, io non sono così certo che sia così, perché in termini di rendimenti reali oggi investire sui mercati finanziari è pericoloso, diciamo così, non essendoci fine alla crisi, quindi non essendo chiaro quando strategie di breve periodo potrebbero generare rendimento. Certo, ce ne sono speculazioni sui titoli di Stato, ce ne sono, però se la BCE continua a comportarsi come sta facendo, riduce tanto i margini di speculazione sui mercati finanziari. Quindi io non lo escluderei. E poi c'è un altro elemento che butto lì, non da conoscitore perché non sono un esperto di questi temi, però io ho sempre avuto il sospetto forte che negli ingenti capitali investiti nell'immobiliare ci fosse una grossa provenienza, diciamo, di riciclaggio, di illegalità diffusa a tutti i livelli, e questi enormi flussi di capitali non credo che verranno meno, e quindi da questo punto di vista io non penso che continuerà a mancare il flusso che alimenta questi processi speculativi. L'immobiliare ha delle caratteristiche che diciamo sono particolarmente desiderabili da parte di chi ha necessità di immobilizzare per un certo tempo capitali di provenienza di riciclaggio, di tutti i tipi, droga, armi, eccetera, eccetera. Per cui io sarei cauto sul fatto di pensare che ci sia una riduzione cioè ci sarà una riduzione, è chiaro, perché ovviamente ci sarà, ma forse non sarà così lunga come invece altri impatti che vedremo sull'economia reale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie veramente. Grazie. Vi salutiamo. Ciao. Ciao. Contiamo di rincontrarci per una prossima occasione, magari fuori dalla crisi. Ciao a tutti, grazie, ciao, buona tutti, serata. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Questo podcast è una produzione del Laboratorio Politico Off Topic. Per approfondire queste tematiche puoi trovarci sul sito offtopiclab.org oppure seguire il nostro canale Telegram Off Topic Lab. Se poi vuoi conoscerci di persona, tutti i martedì sera dalle ore 21 ci trovi allo spazio sociale Piano Terra, in via Federico Confalonieri 3, al quartiere Issola. A presto, ciao!